Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Subito la mail, unabusoalgiorno@radio24.it, il mio blog Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore online, oppure ci arrivate attraverso un motore di ricerca. Allora, chi mi segue da tempo sa che non seguo mai vicende personali, a meno che non siano significative di un malcostume, di un modo di comportarsi molto più diffuso del caso singolo. E qui, a mio giudizio, ci troviamo di fronte ad un caso che, se vero, è, credo, allucinante. Vale a dire, ci troviamo in provincia di Cosenza con una famiglia proprietaria di 2600 metri quadrati, quindi non propriamente un orticello, una bella proprietà terriera. La famiglia vive a Roma, ma è originaria della provincia di Cosenza. Quando torna, ad un certo punto in provincia di Cosenza, trova che la sua area viene sbancata perché lì ci dovrà essere un poliambulatorio. Poliambulatorio che, attenzione, ultimato 3 anni fa, non è stato mai utilizzato. La famiglia proprietaria di quest'area comincia un lungo e dettagliatissimo contenzioso con l'azienda sanitaria locale 4 di Cosenza prima. Ora cambiato nome, si chiama azienda sanitaria provinciale, un lungo contenzioso dal quale se ne potrebbe, uso il condizionale, volontariamente uscire se la famiglia Piane accettasse 85.000 euro. Ma per capire un po' di più di questa vicenda, che ripeto non è ovviamente l'unica in giro per l'Italia, ma se vera la trovo davvero incredibile, perché insomma voglio vedere chiunque di noi si trova da un giorno all'altro espropriato di un'area senza un decreto di esproprio, beh insomma non credo che la prenderebbe propriamente bene. Per capire di più abbiamo con noi Enrico Piane. Buongiorno Piane. Buongiorno e grazie. Uno dei proprietari di quell'area. Abbiamo l'avvocato Paolo Cosentini dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Cosentini. Buongiorno. Avevamo chiamato il direttore generale Franco Petramala, ma il direttore generale si fa rincorrere, è più prezioso di un'ape regina, e quindi ha lasciato che a parlare fosse l'avvocato Cosentini. E in ultimo abbiamo il nostro avvocato amministrativista esperto del Sole 24 Ore, Gaetano Viciconte del Foro di Firenze. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Piane, riassuma sinteticamente soprattutto gli ultimi accadimenti della annosa vicenda che la vede protagonista ormai da un decennio, perché la storia parte a fine 99. Prego, Piane. Allora, senza nessuna grimoria, comincio a dire che io il 15 ottobre del 2008 alle 9:16 ho inviato via fax una richiesta per essere ricevuto dal dottor Petramala per bonariamente mettere a posto tutta questa annosa questione. Dopodiché dico che i miei avvocati non riescono a mettersi in contatto, il professor Criscuolo, con i legali dell'azienda sanitaria locale. Ecco, ce l'abbiamo qui il legale, quindi quale occasione migliore? Al legale vorrei dire, vorrei invitarlo a prendere atto che i miei legali non riescono a contattarla, quindi se lui eventualmente potesse contattare il professor Criscuolo in questa assurda vicenda nella quale è entrata anche il Presidente della Repubblica, che ha mandato un'informativa alla Presidenza della Regione Calabria nel 2006, e ahimè la stessa Presidenza della Repubblica ha risposto che erano desolati, ma nessuno aveva risposto al Presidente della Repubblica. Quindi neppure la Regione aveva risposto. Comunque, andando nel dettaglio, Piane, voi avete scritto a mezzo mondo, all'assessorato ai lavori pubblici, al direttore generale dell'ASL, al Presidente della Repubblica, alla Corte dei Conti, con tanto di foto in cui si vedono i vermicelli che camminano sopra il poliambulatorio, l'erba sui muri, eccetera, eccetera. Nessuno vi ha risposto, ma il punto è che lei ha avuto 2600 metri quadrati sbancati, lì è stato costruito senza che lei ne sapesse assolutamente nulla. È così o non è così, Piane? A metterci sopra altri quasi 25.000 euro di legali. Oh, ok. La vicenda a me sembra assolutamente folle, ma vediamo se è follia oppure se è normalità parlandone con l'avvocato Cosentini. Allora, cosa c'è di giusto e cosa c'è di sbagliato nella ricostruzione di Piane? Guardi, innanzitutto io voglio rilevare una questione fondamentale, che la procedura di esproprio che è stata avviata sostanzialmente nel 96, poi nel 98, ha determinato un momento fondamentale. C'è stato proprio un sopralluogo con immissione in possesso in cui erano anche presenti i proprietari, quindi questo fatto che i proprietari non sapessero niente di questo esproprio e che passeggiando una mattina nel 2002 rendevano conto che la loro area era oggetto di un intervento, mi pare insomma abbastanza curioso. Va bene, lei dice una cosa fondamentale, vale a dire, attenzione, qui c'è un difetto in origine, il signor Piane, la famiglia Piane sapeva tutto dal 98 e non a caso infatti ho detto che la vicenda inizia nel 99, 98, 99. Piane, ma allora insomma lei sta mentendo, sapeva tutto? No, allora ha fatto un atto di missione in possesso che è scaduta il 17 ottobre 1999. Da quel punto in poi non hanno fatto niente là sopra, l'area è rimasta vergine. Quando siamo andati il 19 gennaio del 2002 abbiamo fotografato con la Gazzetta del Sud del giorno l'area che era stata sbancata circa 10 giorni prima. Allora ricapitolo per i non addetti ai lavori e vediamo quindi poi Cosentini cosa ci dice. È vero sì che avevo iniziato un procedimento, ma la dichiarazione di pubblica utilità non si è chiusa, ripeto, non si è chiusa con un procedimento di esproprio. Quindi è vero sì che la famiglia Piana sapeva dell'intenzione del comune in cui ricade l'area, all'epoca era la provincia, di sbancare ed espropriare, ma quel procedimento di esproprio non si è chiuso. 3 anni dopo la famiglia Piane passeggia sulle sue proprietà e oibò vede Ruspe in azione, un'area sbancata. Cosentini. Ma assolutamente no, perché il procedimento di esproprio si è proseguito il suo iter, c'è stata quindi un'attività, anche una forte corrispondenza anche con le istituzioni competenti, con la provincia, stiamo qui a specificare insomma. Comunque corrispondenza con la famiglia Piane. Ci sono stati anche, certamente c'è stata corrispondenza e poi soprattutto, lei forse non ricordo se l'ha rilevato, ci sono stati anche dei giudizi amministrativi dal TAR della sì, Calabria. Sì, assolutamente questi qui ci sono nella lettera che ci ha inviato Piane. Allora lei dice corrispondenza c'è stata, Piane, la famiglia Piane sapeva assolutamente che l'iter era in prosecuzione. Piane, l'iter c'era allora, lei lo conosceva o no? Gli era scaduto il provvedimento di occupazione d'urgenza il 17 ottobre 1999. Non hanno fatto nulla, quindi io dico questi qua non fanno più niente, quindi la roba è mia. Non hanno fatto nulla fino a gennaio 2009, poi questo viene a dire che hanno fatto i lavori prima della scadenza del 2009. Ma comunque lei ha avuto comunicazioni dalla regione, dal comune, dall'ASD tra il 99 e il 2002? Ma quale comunicazioni? Cioè, zero. Avvocato Cosentino, per cortesia, su. Va bene, allora, le parti mi sembrano abbastanza chiare. L'uno dice, aridatemi la proprietà o quantomeno mettiamoci d'accordo, e l'avvocato Cosentini, che rappresenta Sua Maestà Franco Petramala, invece dice, no, io non vi do proprio nulla perché comunque le comunicazioni ci sono state. Allora, a questo punto sentiamo che cosa ci dice il nostro esperto, l'avvocato Gaetano Visciconte. Prego, avvocato. Dalla prospettazione delle parti non è chiaro se il procedimento di cui si parla si è definito con un decreto di esproprio. Se il decreto di esproprio non fosse intervenuto, avrebbe ragione allora l'ascoltatore, certo, il quale lamenta l'illegittimità del procedimento e il fatto che la sua proprietà sia stata in qualche modo trasferita all'amministrazione pubblica senza un atto. Ecco, avvocato, ma io le chiedo questo sì. Decreto di esproprio è un atto pubblico, dico bene? Certamente. Ok, pubblico, certo. Allora quindi se io chiedo adesso all'avvocato Cosentini di spedirmi via fax questo atto pubblico, in maniera tale che io, se un giudice terzo e torni su questo caso, lui non può negarmelo o può negarmelo? Ma è un atto pubblico, naturalmente qui a doverlo richiedere è l'interessato. Benissimo, allora caro Piane, richieda a Cosentini questo atto pubblico, intercedo io per lei. Cosentini, glielo manda questo decreto di esproprio? Bisogna precisare che sulla questione del decreto di esproprio, proprio perché la procedura poi non è stata definita per responsabilità della provincia, con della giunta provinciale, con il rilascio del decreto. Poi successivamente si è proceduto proprio alla definizione della procedura d'esproprio secondo l'articolo 8 del 241 del 90, non so dire adesso. Sì, insomma, sì, comunque non c'è l'articolo 43. Quindi non c'è un decreto, parla praticamente di utilizzazione di beni per scopi di pubblico interesse. Allora, quindi non c'è nessun decreto, voi avete fatto riferimento ad una legge e anche se non c'è il decreto d'esproprio avete comunque sbancato. Piane, insomma, non c'è il decreto, hanno fatto riferimento a questa legge d'urgenza, quindi a questo punto cosa facciamo? Allora, io il 16 gennaio 2006, forse l'avvocato è poco informato, ho indirizzato, raccomandato con ricevuta di ritorno in possesso dei miei legali, al direttore generale della USL 4 una missiva nella quale gli chiedevo il processo di verbale di consistenza dei beni dal soggettato occupazione d'urgenza e di immissione in possesso, verbale di inizio dei lavori e comunicazione relativa, eventuale comunicazione di ultimazione dei lavori, eventuale certificato di collaudo dell'opera. Bene, e non ha avuto niente. Siamo nel 2009, l'ha chiesto nel 2006, 3 anni sono sufficienti per fare quasi 2 Olimpiadi, ma non per dare una risposta ad un cittadino. A me tutta la vicenda, comunque la si guardi, sembra semplicemente allucinante. Io prometto che continuerò a seguire questo caso. Intanto ringrazio tutti i miei ospiti, in regia Filippo Aureggi, in studio Laura Faggin, e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.